Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 6 agosto, siamo sul fine settimana. Buongiorno a tutti e a tutti da Antonella Cortese, soprattutto alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna e della Dozza. E ben trovati su Liberi Dentro ed Radio TV, e in onda tutti i giorni su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. E buongiorno anche a Ignazio De Francesco. Ciao Ignazio. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti. Che come sapete tutti ormai sarà con me Caterina per tutto il mese di agosto a condurre questa trasmissione e a proporci anche una bella playlist di musica araba. E intanto, come di consueto, io voglio ringraziare anche oggi tutti gli amici che ci hanno sostenuto nella campagna di crowdfunding su Ginger. Grazie alle vostre donazioni oggi possiamo continuare a essere con voi, a farvi compagnia in questa calda estate. Con noi in questa trasmissione di un'ora che vi dicevo va in onda tra il buongiorno di Liberi Dentro, le rubriche a tema, ci sono i contributi di tante associazioni che camminano al nostro fianco, alle quali siamo molto grati e che ringraziamo di cuore. Ora però, Ignazio, parliamo di un argomento importante oggi, parliamo del sovraffollamento delle carceri. So che c'è stato un intervento del Garante per i detenuti della Regione Campania. Ce ne vuoi un attimo parlare, per favore? Sì, Samuele Ciambriello e i garanti cittadini Troioia e Emanuele Belcuore sono tornati a chiedere che i detenuti trasferiti da Santa Maria Capovetere dopo le denunce dei pestaggi in carcere siano avvicinati alla Campania. Lo hanno fatto nel giorno in cui la ministra della giustizia Marta Cartabia riferisce in aula sulle violenze, appunto ormai che sono da tutti conosciute e documentate, inoppugnabili, che ci sono state in quel carcere. Le condizioni di vita sono veramente terribili, ma accade che magari uno venga trasferito da quel carcere, quindi in un altro carcere, e quindi venga allontanato poi dalle sue famiglie. Questo è un problema anche qui. Chi ci sta ascoltando dalle case circondariali sa quanto è importante per un minimo di qualità della vita essere vicino, per esempio, alla propria famiglia, alle persone che ti vengono a trovare. È un conto spostarsi con l'autobus per venire in via del gomito, un conto è prendere un treno dall'altra parte del paese per arrivare. Quindi questo problema del contatto tra le persone detenute e le famiglie è molto importante. Sì, è una cosa fondamentale e tante cose vanno approfondite, bisogna fare chiarezza perché sennò diventa un problema ancora più grande, un grido di allarme questo che tante persone ristrette ammassate nelle celle ci stanno lanciando. Sì, direi che tutti i fatti, anche i fatti più gravi, anche l'incendio di una foresta è un campanello d'allarme, come dire, è una scossa, no? L'immagine che noi abbiamo visto venire dal carcere di Santa Maria Capovetere in qualche modo ci sbattono di fronte a quella che è la situazione del carcere, che il carcere nella sua dimensione punitiva, ma non è quella la missione che viene data dalla Costituzione. Io capisco che ci può essere l'atteggiamento che la persona che ha sbagliato deve essere punita e basta. E in qualche modo le violazioni che sono accadute sono la punta di queste cose. Le persone sono punite, ma in questo modo si offende la dignità delle persone, ma anche la dignità degli operatori carcerari, degli agenti, che tantissimi li conosciamo, sia uomini che donne, lavorano con impegno, con tanta difficoltà per i turni difficili, e quindi sottrarre il carcere alla sua vocazione puramente punitiva, medioevale, antica, torna dietro nei millenni, per farne qualche cos'altro, che è qualcosa che vuole la Costituzione, la risocializzazione, e riportare il carcere alla sua dimensione veramente più umana. D'altra parte vorrei aggiungere che il grande numero di recidive ci fa capire che forse bisogna veramente muoversi in un altro modo. Però ti voglio chiedere, diciamo, si può ritenere che le celle si siano affollate ancora di più a causa del Covid oppure c'è altro? Ma sicuramente c'è il problema del sovraffollamento che rimane alto in carcere. Io leggo nel testo appunto che utilizziamo appunto in questo intervento del garante regionale della Campania, le carceri sono affollate solo in parte da detenute con condanne definitivi. Per quasi la metà la popolazione penitenziaria è composta da detenuti in attesa di giudizio e detenuti con residui di pene inferiori ai 5 anni. Forse sfollare le carceri si può, stando a questi dati, bisogna puntare sulle misure alternative. È una cosa di cui si parla. Io personalmente, la mia posizione come libero cittadino, dico questo: meno le persone stanno in galera, meglio è. Non vuol dire che quello che hai fatto non è nulla, allora ti premiamo, facciamo finta di niente. Però se l'obiettivo che dà la Costituzione è la risocializzazione, io devo fare tutto il possibile perché questo avvenga e non desocializzarti, disintegrarti, come quello che avviene per carcerazioni lunghe e in condizioni di sovraffollamento. Giustissimo, condivido appieno e a questo punto cambiamo un attimo registro per parlare di musica. Chi ci presenti oggi, Ignazio? Allora, oggi per concludere la settimana una cantante siriana, Tema, una cantante araba, però che canta jazz, è un bellissimo jazz tra l'altro, perché la musica anche quella fa ponte tra culture, che ci canta Badak alla Bali, sei nei miei pensieri. E lo dedichiamo oggi a Mohamed Amin, se ci sta ascoltando, e ad Alessandro. Benissimo, allora un saluto a Mohamed Amin e ad Alessandro e ascoltiamoci questa bravissima cantante Tema. Lasciamo la bravissima Tema per parlare, come ormai di abitudine, di un animale per il nostro venerdì animalesco. E oggi scopriamo l'animale che ormai è diventato in qualche caso una presenza addirittura cittadina, il cinghiale. E come sapete il cinghiale è un mammifero ungulato, cioè è un animale che possiede un numero pari di dita e le zampe vengono sostenute principalmente dal terzo e dal quarto dito, che fa parte della famiglia dei suidi. Questo animale è sempre stato considerato una preda molto ambita per la sua ottima carne prelibata, che ancora oggi viene consumata perché vengono cacciati regolarmente, ma è anche un avversario molto fiero e ha delle tecniche di difesa molto raffinate. Le storie sul cinghiale sono presenti fin dai tempi dell'antichità, descritte in molte storie mitologiche popolari. E soltanto nel corso del secolo scorso, questo esemplare ha smesso di essere una fonte primaria di cibo, perché al suo posto è stato introdotto la versione domestica del cinghiale, cioè il maiale. Ecco, tra l'altro in arabo il maiale diciamo il khinzir e il cinghiale il khinzir al-washi, cioè il maiale selvatico, appunto. Dove è diffuso principalmente il cinghiale? Allora, il cinghiale è diffuso, è originario più che altro dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, ma grazie alle sue straordinarie doti di adattabilità è diffuso un po' dappertutto. E nel corso dei secoli questa specie si è decimata, ma poi è stata reintrodotta più volte, e quindi è difficile definire numericamente quanti cinghiali esistano. Si riproducono anche molto velocemente, c'è da aggiungere. E molto spesso sono risultato di accoppiamenti di esemplari alloctoni o maiali rinselvatichiti, come un po' dicevi tu. In Italia comunque ce ne sono molti e si sono fatti notare in alcune città, infatti girava su internet il video di una signora di Roma che era stata avvicinata da un cinghiale mentre aveva le buste della spesa, che ovviamente ha lanciato via e è scappata come una matta perché aveva paura di essere aggredita dal cinghiale affamato. E i cinghiali la fanno da padrone anche intorno a casa nostra, che stiamo nei boschi, cioè che sono dappertutto e giustamente, come dici, sono molto prolifici. Allora, per chi non l'ha mai visto, che descrizione, come fisicamente, come si presenta questo animaletto? Allora, con i suoi 180 centimetri di lunghezza, un cinghiale adulto può arrivare anche ad un metro di altezza ed un peso di circa un quintale. Ha un corpo molto massiccio e quadrato, e squadrato anzi. Le zampe sono particolarmente corte e sottili e presentano degli zoccoli molto robusti. Nonostante le dimensioni ridotte delle gambe, il cinghiale corre molto velocemente. Io li ho visti quest'anno, ne ho trovati tantissimi e li ho trovati con i cuccioli. I cuccioli sono piccolini e hanno delle striature sul dorso, mentre quelli più grandi cominciano a cambiare di colore. Vi assicuro che trovare una mamma cinghiale con i piccolini è veramente pericoloso. Devi darti la gambe, perché giustamente protegge la prole. E questo animale ha anche una coda piccolina con una specie di ciuffetto che utilizza, che quando muove velocemente significa che è arrabbiato, ma lo usa anche un poco come scaccia mosche. In più ha una testa molto grande, ma la cosa che fa paura è la sua dentatura. E ha 44 denti, ma soprattutto ha due zanne, che sono i canini, che sono inarcate verso l'alto. Insomma, trovartelo davanti non è proprio simpatico. In ogni caso, in inverno il pelo è molto folto e di colore scuro, mentre d'estate pian pianino diventa più leggero, diciamo così, e più chiaro. Questo è un animale molto forte che, se si sente infastidito, non esita ad attaccare. È praticamente onnivoro, mangia il cibo che compra al supermercato la signora di Roma, come pure quello che trova nelle nostre campagne. Poi soprattutto cerca l'acqua, per cui con il suo muso va a ravanare dappertutto anche per dissetarsi. Vi faccio ascoltare una canzone che ha a che fare col cinghiale, ma in realtà è un cinghiale bianco. Infatti ascoltiamo il bravissimo Franco Battiato, che nel 1979 aveva prodotto questa canzone che è L'era del cinghiale bianco. Ascoltiamola. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Oh, dopo aver ascoltato la famosa canzone di Franco Battiato, che ci ha purtroppo lasciato da poco, passo la parola alla nostra Caterina Bombarda e alla sua intervista alla psicologa Elisa Mauri. A te, Caterina. Bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori, sempre su Liberi Dentro Edu Radio. Riprendiamo il filo della nostra intervista con Elisa Mauri, che l'ultima volta ci stava parlando della sua tesi sull'autolesionismo nell'istituzione totale. Buongiorno e bentornata con noi. Ciao Caterina, grazie. Allora Elisa, di fronte all'autolesionismo il carcere e tutte le sue anime, per così dire, si attivano. È considerata un'urgenza, un evento critico, come anche lo definisce l'amministrazione penitenziaria, un evento quindi da capire, da leggere, da interpretare, ma soprattutto da gestire. E la tua riflessione consegna all'autolesionismo un valore, possiamo dire, di comunicazione. Perché si aggredisce la propria pelle? Cioè, ci vuoi spiegare meglio questa cosa? Sì. Allora, innanzitutto voglio dire un concetto che è abbastanza generale, è una regola generale, insomma, della psicosomatica, cioè che si consegna al corpo tutto ciò che non sei in grado di elaborare a livello mentale per mancanza di strumenti individuali o magari dettati dal contesto, come magari in carcere. Nello specifico, per riprendere la tua domanda, perché si aggredisce la pelle, dobbiamo utilizzare un po' una modalità simbolica per capire quale può essere il senso profondo di un gesto così disperato, seppur poi, vabbè, tutto va visto caso per caso. Però la pelle fondamentalmente ha tre funzioni: difesa, limite e comunicazione, e viene assimilata un po' per analogia al concetto junghiano di persona, cioè rappresentano a livello psichico e a livello corporeo una mediazione tra il mondo interno e il mondo esterno, però per essere sane devono essere elastiche e permeabili, altrimenti diventano delle corazze mortifere che potremmo dire possono essere incise per liberarsene in qualche modo, no? E se pensiamo al contesto del carcere, effettivamente la volta precedente parlavamo un po' insomma di tutte quelle modalità che mette in atto l'istituzione totale e che diventano molto limitanti per la psiche di un individuo. Effettivamente l'individuo nell'istituzione totale viene privato di una serie di ruoli relazionali che noi generalmente viviamo in maniera differente nella nostra vita, e ha come unica identificazione quella di re o quella di qualcuno che comunque ha sbagliato e ha commesso degli errori, no? Quindi ecco, potremmo dire che forse, no, in questo senso questa potrebbe essere magari, no, la corazza di cui forse ci si prova a liberare attraverso un gesto che sicuramente è disperato, ma che probabilmente ha un significato più profondo. Nella tua esperienza di psicologa in carcere, come pensi venga affrontato, se viene affrontato, dalle figure sanitarie o di aiuto il tema dell'autolesionismo? Cioè, vediamo l'attivazione delle figure professionali e mi chiedo se si faccia teoria e pensiero insieme anche dopo l'intervento urgente. Qual è il tuo intervento clinico, per esempio? Ok, allora è chiaro che diciamo l'intervento sul fenomeno dell'autolesionismo in carcere è normato da una serie di protocolli di cui però io non voglio parlare. Io voglio parlare della mia esperienza virtuosa, che capisco che è anche legata appunto a questo contesto fortunato che ho trovato, di questi bravi clinici che comunque si sono impegnati molto nel loro lavoro. Però io voglio testimoniare questo: io ho visto l'impegno di questi miei tutor che ascoltavano e si impegnavano davvero per comprendere qual era il bisogno profondo della persona che avevano davanti, e lavoravano tantissimo sulla relazione e l'alleanza terapeutica, e attraverso il loro lavoro io devo dire che ho visto rientrare casi molto gravi e complessi, grazie proprio però a questa cura e attenzione che dovrebbero sempre essere alla base del nostro lavoro di cura, ma che a volte possono essere persi, soprattutto forse in contesti così fortemente istituzionalizzati e anche violenti per la loro stessa intrinseca natura, come per esempio il carcere. Grazie Elisa, è il momento di un altro brano, ritorniamo con te dopo e lanciamo i Pink Floyd con Wish You Were Here. A fra poco. Mm-hmm. you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part? Rieccoci, bentornati sulle note dei Pink Floyd. Siamo sempre con te, Elisa Mauri, psicologa, per parlare dell'autolesionismo in carcere, per questa seconda puntata sulla tua tesi, in realtà. E una domanda che avevo è anche a livello geografico, come dire, perché mi pare che la maggior parte degli autolesivi provenga dalle aree del Nord Africa. C'è una spiegazione? Tu te la sei data? Allora, in realtà non lo so, nel senso che l'intento comunque del lavoro che abbiamo fatto anche con questi miei tutor nell'osservare il fenomeno dell'autolesionismo in una realtà detentiva in particolare, era un po' quello comunque di superare forse una serie di rappresentazioni che a volte rischiano di essere forse un po' stereotipate, no? Quella per esempio dell'appartenenza a un certo gruppo geografico era un po' una di quelle che avevamo identificato, no? Diciamo che i numeri, le statistiche effettivamente dicono questo che tu riporti, no? Però a volte, insomma, i numeri possono essere un po' imprecisi o comunque lasciano fuori una serie di informazioni che secondo me è più utile integrare. Quindi quello che io posso dire a riguardo è che a volte mi è capitato di incontrare persone che appunto arrivavano anche per esempio dal Nord Africa, ma anche da altri paesi, che venivano scaraventate in carcere, dico scaraventate perché l'ingresso in carcere è un momento molto difficile, senza magari saper parlare una sola parola in italiano, e quindi come si può stare davanti ad un impatto così forte come quello dell'ingresso in carcere e come si può esprimere quello che si prova se non si può utilizzare quello strumento così elevato che è il linguaggio, forse attraverso appunto il corpo, come dicevamo prima. Inoltre poi voglio riportare la testimonianza, perché è una domanda che io ho fatto a una persona che ha una nazionalità, insomma, del Nord Africa, che mi diceva, una persona detenuta che mi raccontava che le prigioni in Africa sono qualcosa di tremendo, sono un inferno in terra dal quale puoi uscire, puoi avere un momento di tregua solo se ti fai male, e allora vieni portato da un medico in ospedale. In ogni caso mi sembra che le due cose che ho appena portato ritornino sulla questione del tentativo di comunicare e del rompere comunque una situazione di sofferenza ingestibile. Mi permetto di collegarmi in questo senso al pensiero di Le Breton, quell'antropologo molto famoso che citavo prima, per cui l'atto del tagliarsi sostanzialmente genera un cambiamento all'interno dello stato psichico di una persona, si passa dalla sofferenza al dolore, e quindi in questo senso lui lo interpreta come un gesto di autoguarigione. Grazie ancora per averci sviscerato tutto questo tuo lungo studio, in realtà. Quindi ti ringraziamo veramente tanto. Lancio l'ultima canzone dei Pink Floyd, Us and Them. Mi sembra veramente opportuna alla fine della nostra chiacchierata, e spero di ritrovarti ancora con noi su Liberi Dentro. A presto. A presto, grazie. Ciao. Ciao. The rim and the floor. E anche oggi il Buongiorno di Liberi Dentro termina qui. Ma non lasciateci, perché ci sarà a seguire la rubrica Islam, religione e civiltà, e ancora dopo ginnastica da camera. Domani, sabato 7, potrete seguire la Cappellania, la rubrica Parliamo di Buddismo, successivamente Libri Dentro e infine il Teatro del Fratello. Mentre domenica potrete seguire la trasmissione del CPA di Bologna e anche quella del Teatro dell'Argine. Un caro saluto a tutti, un buon fine settimana da Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e al montaggio Enea Flacco. Buon fine settimana! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.